Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia immediata di prima semifinale e quindi Uruguay-Olanda stasera, la seconda domani sera con Germania e Spagna. Collegamento subito con il Sudafrica, con lo studio centrale di Sky Sport 24, dove troviamo come sempre, anche oggi puntuale alle bandiere, Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Puntuale, felice d'esserci. Buongiorno Gigi. Felice anche noi di sentirti, intanto constatare che l'usura del mondiale ti avrà un po' preso, ma non ha ancora colpito in maniera così dura. No, durissima no. Poi tra l'altro sono riuscito ieri sera per la terza volta ad uscire a cena con una persona normale e la cosa è stata molto piacevole. Certo. Perché davvero qui è una carne che è pazzesca. Sì. E comunque bene, insomma, no, teniamo duro. Teniamo botta. Non molliamo fino alla fine, anche perché questa è la parte più bella. Insomma, le semifinali sono davvero. Cioè, ti dirò, a me le semifinali entusiasmano quasi più della finale. Poi non facendo il tifo, mi piace far vedere queste due partite. Anche a tennis mi piace, cioè preferisco il giorno delle due semifinali al giorno della finale. Non pretendo di venir compreso, però così. È un gusto, una debolezza. Senti, delle due, quella di stasera sulla carta, sopra il papel, come dice il tuo amico spagnolo. Bravissimo. Ho imparato questa espressione. Sopra il papel è la più sbilanciata delle due, perché l'Olanda è favorita abbastanza nettamente, anche per i bookmakers. Vogliamo metterci un però, e se ci mettiamo un però, come lo motiviamo? Ma il mio però è dato dal fatto che la sensazione è che Tabárez voglia fare 4-4-2 stasera e quindi non partire con Abreu dal primo minuto. È loco Abreu, lo ricordate tutti, colui che trasformò con un cucchiaio il calcio di rigore, l'ultimo calcio di rigore nella gara contro il Ghana. Il però secondo me sono due. Il primo è semplicemente, come dire, ambientale e scaramantico, cioè l'Uruguay ha visto sportivamente la morte in faccia e ne è venuto fuori, e quindi con tutta probabilità, cioè i casi sono due: o adesso l'Uruguay pagherà tutto quello che ha avuto in sorte nella gara contro il Ghana, oppure significa che c'è qualcosa di ancestrale che porterà la squadra di Tabárez in finale. Usciti da queste, che sono cose che però non hanno per me troppo valore, il senso è, credo che Tabárez cercherà di fare quello che il Paraguay ha fatto con la Spagna, cioè cercare di chiudere tutto a doppia mandata, quindi mettere in campo anche Gargano. Non escludo che Gargano, il giocatore del Napoli, possa giocare dal primo minuto, mettere una squadra tutta concentrata e dietro la linea della palla per far scatenare Cavani e Forlan in contropiede, non avendo Suarez, quindi non giocando con i tre davanti. Credo che avrà un po' più di spazio Cavani, che invece contro il Ghana ho visto troppo sacrificato sulla corsia. E questa è la speranza di Tabárez, cioè di allungare il più possibile la partita, di prendere un po' anche per il nervosismo l'Olanda, che è invece certissima ad avere i favori del pronostico, e soprattutto di ingabbiare quei due fenomeni che sono Robben e Snyder in spazi molto, molto stretti. Che per Snyder secondo me non è un grande problema, mentre invece per Robben sì, nel senso che Robben ha un po' più bisogno di campo per scatenare il suo sinistro, mentre invece Snyder è capace a destreggiarsi anche quando le maglie diventano tante vicino a lui. All'Uruguay mancherà più Suarez oppure Lugano? Domanda Marco in un SMS appena arrivato. Io intanto Lugano voglio ancora vedere che manchi. Tu ne sei abbastanza certo? Sì. Ma guarda, mi prendo Suarez perché sono sicuro che mancherà. Lugano magari alla fine recupera. Loro hanno fuori, se starà fuori anche lui, hanno fuori quattro giocatori importanti, e questo è pesante per una squadra che non ha dei grandissimi talenti. Cioè, ha un grande giocatore come Forlan, ha un giocatore in divenire forte come Suarez. Ha un portiere non sicurissimo, perché Muslera, comunque, anche no, se è uno di quelli che ha preso meno gol, non trasmette mai grande fiducia a chi guarda la partita. Però complessivamente è una squadra vera, cioè una squadra che ha i fondamentali al posto giusto, cioè una squadra che non regala niente. Poi il calcio è strano, cioè se l'Olanda fa gol subito magari finisce in goleada, oppure no, oppure se invece la partita resta inchiodata sullo 0-0. Io credo che più la partita rimane in pareggio, cioè più minuti rimane in pareggio la partita, più diventa diventa pericoloso per l'Olanda. È un po' come quando giocava a tennis Wilander, quando si diceva dal quarto set in poi Wilander è uno che fai fatica a batterlo, tenta di batterlo in tre set perché dal quarto in poi lui diventa più pericoloso. Ecco, questa mi sembra una lettura. Sì, sì. C'è un ad arretta le formazioni che ho visto pubblicate stamattina, insomma, c'è un dato che mi pare tutti condividano, e cioè il fatto che il posto di Fusile sulla sinistra della difesa uruguayana dovrebbe prenderlo Cáceres. Temo per Tabárez che Cáceres sia quello della Juve. Sì, ma infatti anch'io io non ci credo. Io non ci credo nemmeno, perché già il Cáceres visto quest'anno alla Juve dopo un inizio, ma in cui tutta la Juve aveva illuso, e soprattutto un Cáceres spostato dall'altra parte, perché in genere lui gioca a destra o centrodestra, e avendo di fronte Robben, io non glielo auguro ai poveri uruguayani comunque. No. Poi può succedere tutto e può essere che Cáceres faccia la partita della vita. Sinceramente anch'io quando l'ho visto, l'abbiamo messo in grafica anche noi, ma anche sulla scorta delle indicazioni che ci arrivano dai nostri inviati, il primo moto è stato, ma non ne ha un altro, può anche essere che non ne abbia un altro, sinceramente aspetto stasera, però se devo scommettere 2 euro non li scommetto su Cáceres in campo in quella posizione lì. Tanto meno in quella posizione lì, per l'appunto. Se poi c'è un altro. Soprattutto, a maggior ragione. C'è un altro rimescolamento interno possibile, è un conto. Oggi sulla Gigi, l'unica cosa forse possibile è che lui voglia, siccome Robben fa sempre lo stesso movimento, cioè partire da destra, accentrarsi e scatenare il sinistro, mettergli contro uno che è più abituato a giocare a destra, perché magari tendenzialmente nel movimento dal centro verso destra è più uso a farlo in copertura. Però siamo davvero alla bizzarria del pensiero. Siamo alla bizzarria, io credo che Tabárez abbia non sia un genere, cioè, o ha soltanto quella soluzione, anche perché non può nascondersi che con un giocatore abbastanza aggressivo, diciamo così, come Cáceres, spostato tutto fuori posizione contro Robben, il rischio di non finire il primo tempo in 11 potrebbe anche essere un rischio concreto, e quindi rifletterà anche su questo. Torniamo in collegamento con il Sudafrica e sentiamo da Fabio Tavelli qual è invece la ragione per cui l'Olanda favorita, insomma, rispetterà al massimo l'Uruguay, ma alla fine, secondo sopra il papel, dovrebbe averne ragione. Ma sopra il papel perché l'Olanda ha i colpi per vincere, mentre l'Uruguay ne ha molti meno, anche se, ripeto, Forlan è un giocatore che, insomma, avercene. Però l'Olanda ha 2-3 giocatori con dei colpi straordinari. Onestamente, però, vedendo la formazione che probabilmente Van Marwijk metterà in campo e vedendo come l'Olanda possa vincere il primo mondiale della sua storia, potendo schierare in semifinale un centrocampo che oserei dire muscolare, e mi fermo qui, formato da Van Bommel e De Zeeuw con Bularuz a destra, e pensare che l'Olanda di Cruyff, di Neskens, di Rensenbrick, di Rep, e mi fermo qui, non lo ha mai, e di Ruud Krol, non lo ha mai vinto, mi vengono dei pensieri strani, perché effettivamente con De Jong fuori lui potrebbe far giocare De Zeeuw centrale, oppure ne ha un altro che si chiama Scars e che gioca nella Z e che però è praticamente un novellino, con la N minuscola naturalmente, certo. E quindi non ha grandissime cose. Complessivamente, Gigi, ho notato questo, c'è poca profondità nelle panchine, cioè quando togli i primi 11, diciamo i primi 13, arrivare a 23 con 23 giocatori proponibili a questi livelli fai fatica, perché allora sei costretto a mettere Cáceres a sinistra, costretto a mettere in campo De Zeeuw. No, dicevo che la panchina di gran lunga più ricca per me è quella della Spagna, perché ogni volta che ne esce uno entra un altro grande giocatore, e molti non li abbiamo ancora, non li vedremo e non li sentiremo nemmeno nominare, ma loro sì. Se pensi che Fabregas praticamente non lo stanno usando e che con tutta probabilità si va per una panchina di Fernando Torres, direi beata abbondanza. Io, insomma, sulle quattro non ho dubbi nell'indicare la Spagna come la più forte, ma proprio perché è veramente la più forte, la più completa, la più lunga come panchina. Poi magari arriva quarta, certo. però sempre sopra il papel è una squadra veramente fantastica, può fissare l'europeo. Però insomma, tornando a questa sera, Van Persie recupera e quindi giocano con Van Persie, Kite, Snyder e Robben, che è un discreto arsenale davanti, ed è anche per questo che l'Olanda mette dei centrocampisti di puro contenimento, anche perché insomma, se noi pensiamo ad esempio all'Inter che ha vinto tutto, era una squadra clamorosamente a livello di nomi sbilanciata in avanti, che poi questi facessero i difensori a volte come Eto'o è una cosa diversa, però a livello di nomi erano giocatori tutti decisamente e votati all'offesa, all'offensiva, mentre invece l'Olanda ha giocatori appunto come Kite, come Van Persie, come Snyder, come Robben, che hanno quel ruolo lì e lo esercitano pienamente, e quindi c'è bisogno di due Gattuso in mezzo al campo, che Gattuso dei tempi belli, però in mezzo al campo che vadano a recuperare palloni per cercare di ributtarli in avanti. Però ecco, la qualità del centrocampo dell'Olanda, se la mettiamo a confronto con quella del centrocampo della Spagna, il confronto è imbarazzante a favore della Spagna. Questo sì, infatti io sono certo che se si facessero le semifinali tra queste quattro squadre e giocassero non i primi 11, la Spagna vince a mani basse, probabilmente. Giocando i primi 11, mi pare che la Spagna stia facendo più fatica di quella che ci si immaginava. Mi pare che la disamina delle vigilie di stasera sia stata fatta in maniera compiuta. Hai citato Cavani e Gargano, e cioè quel pezzo di Italia, sia pure di importazione, che stasera sarà in campo con Muslera, a parte Snyder, e quindi mi pare che da questo punto ci siamo. La vigilia più in dettaglio di domani la faremo per l'appunto domani. Come la domanda è più o meno sempre la stessa, però nasce da questa, non dico dalla meraviglia, però insomma dalla sensazione che il Sudafrica continui a essere molto legato a questo mondiale, pur essendo ormai direttamente non più coinvolto da due settimane praticamente. Sì, sì, non c'è dubbio, c'è un'eccitazione forte. Poi è anche vero che quello che voi vedete televisivamente è un po' il meglio, nel senso che sia il canale interno della FIFA che comunque i grandi network da un lato cercano di mettere in evidenza anche gli aspetti sociali, ma soprattutto gli aspetti del colore e gli aspetti dell'entusiasmo. Quindi sì, ieri i giornali scrivevano di un milione abbondante di nuovi di visitatori che sono venuti rispetto agli anni passati qui in Sudafrica per vedere i mondiali, ma si è addirittura lanciato in una candidatura per il 2020 per le Olimpiadi. Quindi credo che l'effetto volano sia stato un effetto importante. Poi ieri sera ho anche abbastanza parlato con il nostro driver sudafricano, perché tutti noi ci stiamo continuando a domandare se quella sorta di terrorismo psicologico che ci hanno fatto prima di venire qua sulla pericolosità del luogo fosse vera o fosse eccessiva. Tutte le persone sudafricane con le quali parliamo, non è il posto più sicuro del mondo, ma che se tu comunque la sera vai in un qualsiasi quartiere di una periferia, il rischio è più o meno lo stesso, insomma non è molto diverso da quello che succede altrove. E quindi con tutta probabilità è stata un po' caricata, le tinte della situazione sociale sudafricana è stata un po' caricata. Poi è chiaro, ci sono anche qui i furti, ci sono gli omicidi, c'è tutto il resto, però credo che la grande famiglia mondiale, a parte qualche rara eccezione dei furti di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbia vissuto bene questi 40 giorni. Grazie allora a Fabio Tavelli, ci sentiamo regolarmente domani dopo aver chiuso questo collegamento che nel finale scricchiolava leggermente per un problema di audio e di ricevibilità, ma insomma grazie per queste informazioni. Ci sono già degli ascoltatori collegati, ci sono molte mail, perché ieri insomma ci siamo divertiti grazie a tutti quegli ascoltatori più o meno indignati, ma insomma più o meno come dire, impegnati in riforme regolamentari, perché non si para un pallone sulla linea di porta, è antisportivo, e nel rugby c'è la meta tecnica, eccetera eccetera. Allora, per esempio, Raffaele, io ne ho qua tante di mail, adesso un po' alla volta le smaltisco perché sono divertenti. Raffaele Parenti per esempio scrive: perché non suggerisce ai tanti ascoltatori che vogliono proporre nuove fantastiche regole per migliorare il calcio di scrivere una mail a j.blatter@fifa.com o m.platini@uefa.com, che in effetti potrebbe essere una prima soluzione. Oppure Andrea Lusetti dice: ma senta un po', dato che ieri ho fatto fatica a smettere di ridere dopo aver sentito tutte quelle varianti punitive per chi commette un fallo di mano sulla riga di porta, potremmo davvero pensare a un portiere con le mani legate dietro la schiena durante il calcio di rigore, a un portiere appeso alla traversa fino a che l'attaccante non ha battuto, a un portiere che deve rispondere a una serie di quesiti prima, durante e dopo il calcio di rigore, e se sbaglia una risposta è comunque gol, a un portiere distratto da venenti ragazze in abiti succinti, o a un portiere sostituito da un tifoso sorteggiato tra il pubblico. Insomma, le proposte esilaranti di ieri evidentemente hanno colpito, nel senso che poi ce n'è uno molto molto carino, che è Mauro Miatello, che scrive: io proporrei una commissione di 5 arbitri al posto del quarto uomo, con possibilità di vedere la moviola e decisioni da prendere con maggioritario a doppio turno. Così le partite durerebbero 7 giorni, non ci sarebbe tempo per le polemiche, perché finita una ne comincerebbe subito un'altra. Da Milano è in linea Marcello, buongiorno. Buongiorno Tor Garanzini, con immenso Dica. Piacere che la saluto, tanto tempo che non intervengo, sempre un piacere sentirla. Grazie. Ascolti dottore Garanzini, io direi, è d'accordo con me a dire che è la vera finale del mondiale domani, che secondo me sono le due squadre obiettivamente che hanno espresso il miglior calcio, la Spagna molto a sprazzi, la Germania sicuramente più continua. Io sull'Olanda ho un mio pensiero, anche io ricordo, la come diceva il signor Tavelli, l'Olanda dei vari Cruyff è tutta un'altra cosa. Cioè, secondo me la partita col Brasile l'ha persa molto il Brasile, più che vinta l'Olanda, se l'è un po' ritrovata. Volevo un suo giudizio e sulla mia considerazione. Ma sopra il papel, come dicono gli spagnoli, sì, la vera finale è domani, la finale anticipata è domani, però insomma di finale anticipate ne abbiamo già avute un po', perché era stata etichettata così Argentina-Germania, era stata etichettata così Brasile-Olanda. Io sono deluso fin qui dalla Spagna, sinceramente, da come ha giocato, e poiché alla vigilia ero abbastanza convinto, o comunque convinto no, ma insomma pensavo che la favorita in assoluto fosse la Spagna e che Viglia fosse il favorito per il titolo del capocannoniere, allora sul secondo ci possiamo più o meno ancora stare. Sulla Spagna deve cambiare marcia in semifinale e finale, può farlo perché può farlo, ma mentre sulla qualità del gioco che fin qua hanno espresso i tedeschi non ci sono dubbi, su quello spagnolo io sono rimasto abbastanza ampiamente deluso, e le dirò che, ripeto, pur avendo indicato la Spagna all'inizio come favorita, io l'ho già detto ieri, mi sono scoperto l'altra sera a simpatizzare per il Paraguay, che secondo me stava giocando una partita migliore di quella della Spagna e una partita valida in assoluto, certo in rapporto alle risorse che il Paraguay ha rispetto a quelle della Spagna. Quindi credo che per quello che abbiamo visto fin qui l'avversario ideale in finale della Germania sia proprio l'Olanda, per quello che abbiamo visto. Però il bello di un mondiale è che tutto evolve in continuazione, no? E Brasile e Argentina, che avevano comunque dato scampoli di spettacolo mica male nelle partite precedenti, sono arrivate contro due ostacoli alti e si sono infrante. Poi è vero che l'Olanda, che il Brasile ha regalato, e invece la Germania le cose se le è presa, però così è andata. Cosimo è in linea da Matera, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io volevo parlare della Germania, che io vedo un'anomalia quest'anno. Se dai mondiali dell'età moderna, età moderna intendo dall'82 in poi, quando ci fu la nuova apertura delle frontiere, solitamente hanno sempre vinto grandi esportatori di calcio, Brasile, anche la stessa Francia del 98, coloro i quali esportavano i calciatori. Oppure in due casi l'Italia, che aveva uno dei campionati che attraeva di più. La Germania quest'anno non solo giocano tutte in Germania i giocatori, in un campionato che è tra i minori dei grandi campionati. Beh, tra i minori per gli incolti, Perché... No, io dico tra i minori paragonati Inghilterra-Spagna. Sì, però... La cosa è perché già a differenza, per esempio, 86-90, se si ricordano, grandi esportatori, blocco Inter, per esempio, Matheus, Brehme e Klinsmann. E secondo me questo fa preoccupare, perché è un progetto sicuro per i prossimi europei, per i prossimi mondiali, questo volevo dire. Io non mi preoccuperei, semmai li applaudirei per aver fatto per aver messo in piedi un progetto di questo genere, che mi sembra un signor progetto. E quanto al fatto del campionato, il campionato tedesco è probabilmente in assoluto il più bel campionato da qualche annetto a questa parte, se teniamo presenti due parametri. Uno è gli stadi sempre pieni e gli stadi ad alto tasso di sicurezza, oltre che spettacolarità, perché sono stadi nuovi fatti apposta per i mondiali. Uno. Due, competitività per un gran numero di squadre, e in effetti c'è una grande alternanza al vertice, un grande equilibrio in quei campionati, frutto di che cosa? Di una politica economica e finanziaria molto molto seria da un punto di vista federale e dal punto di vista del controllo. Beh, insomma, quindi da questo punto di vista non è un campionato minore, è il miglior campionato che ci sia in Europa. Poi i campionati spagnoli e inglesi, per esempio, sappiamo che sono gonfiati e che presto si dovranno sgonfiare. Torniamo in onda in vostra compagnia e ad ascoltare qualche voce di vigilia, per esempio quella di Cavani, che come ben sapete è una colonna del Palermo, su questa semifinale contro l'Olanda. Una sensazione molto particolare, perché io credo che oggi, così come era rimasto il Ghana in rappresentazione di Africa, oggi c'è l'Uruguay in rappresentazione di Sud America, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio per lasciare il nostro paese in un bel posto a livello mondiale. Sì, so che il mio presidente e il nostro direttore sportivo hanno parlato molto bene di me. Sono contento, sono felice, orgoglioso pure di sentire quello. Dopo mi sento con gli amici, con le persone che sono rimaste là. E andare fuori un mondiale dopo una partita che era stata uguale per tutti e due, una partita molto dura, tirata. Quindi io credo che sempre c'è qualcuno che è giusto e in quel momento ha fatto giustizia, perché veramente non era la maniera che noi dovevamo andare fuori, quindi abbiamo avuto un'altra opportunità e l'ha vinto l'Uruguay. E questo era Cavani. Antonino ha chiamato da Messina, buongiorno. E buongiorno dottor Garanzini. Dica. Le volevo chiedere un suo parere riguardo gli arbitri, le condizioni attuali del calcio così veloce, così il pressing, e un po' le regole sono sempre uguali. Vorrei chiedere un suo parere per aiutare gli arbitri un po', lo so che non si può sostituire con la federazione, però un suo parere, grazie. Il pressing esiste da metà degli anni 70, dalla prima metà degli anni 70 lo inventarono gli olandesi. Il calcio è diventato sempre più veloce, ma è anche vero che gli arbitri si sono sempre più preparati, nel senso che alla superiore preparazione atletica del calciatore è corrisposta una superiore preparazione atletica dell'arbitro. Se noi oggi vedessimo, con tutto rispetto, Concetto Lobello piuttosto che Paolo Casarino, piuttosto che grandi arbitri di ieri, ma sto parlando di anni 60, 70, ancora anche 80 se parliamo di Casarin, per esempio, li vedessimo oggi con la dinamica di allora sul seguire il calcio moderno, sarebbero evidentemente inadeguati. Però è lo stesso discorso per cui vedere oggi una partita degli anni 60 o degli anni 70, vedremo calciatori che percorrono molto meno strada, che di scatti ripetuti ne fanno molti di meno. Insomma, è cambiato tutto, ed è cambiata anche la preparazione arbitrale, che consente loro di stare di essere sempre più vicini all'azione. Poi che tutto questo non basti ancora è un altro paio di maniche. Tenga anche conto che un tempo gli assistenti, quelli che oggi si chiamano assistenti, erano soltanto dei guardaline, anzi li chiamavano segnaline per la precisione, non perché dovessero soltanto segnare il campo, ma perché la loro collaborazione si limitava esclusivamente alla palla uscita o al massimo a fuori gioco. Oggi cercano, perlomeno nelle terne più affiatate, cercano di collaborare, di segnalare anche delle scorrettezze all'arbitro. Edmondo ha chiamato da Foggia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, come dica. Sta bene? Senta, no, le volevo dire intanto naturalmente complimenti, perché lei non è mai banale, non solo negli argomenti che tratta, ma soprattutto nelle risposte che dà ogni tanto. Io sto ancora ridendo per la telefonata di ieri sul Mani, sulla linea, che l'attaccante dovrebbe tirare il rigore senza portiere. C'è qua un pacco reso allegro tutto il pomeriggio. È la sua risposta. Allora mettiamo un portiere bendato, perché è stato veramente esilarante. Quindi lei non è mai banale, nel piattume generale di commenti la sua trasmissione si distingue sempre. Grazie. Le chiedo, visto che lei ne ha viste veramente più di Carlo in Francia, ma perché ogni volta che c'è una manifestazione calcistica grossa, in genere il mondiale, tutti quanti cominciamo a mettere in discussione il regolamento e ci inventiamo cose strampalate? Non lo so. Lei se ne ha fatto un'idea? No, è una bella domanda questa, perché io penso che dipenda, così a occhio improvviso, penso che dipenda dal fatto che una marea di incompetenti si affacciano in occasione dei mondiali, ma incompetenti lo dico senza mancare di rispetto a nessuno, perché può capitare benissimo anche a me al contrario. Magari c'è la Coppa del Mondo di rugby, il rugby mi piace ma non lo conosco fino in fondo, perlomeno tecnicamente, certamente non come il calcio, e magari mi può capitare di farmi venire in mente, non so, una fesseria regolamentare applicata al rugby, per esempio, non lo so, in genere no, ma immagino che il calcio, essendo così coinvolgente ed essendo proprio in queste occasioni, in questi appuntamenti, una cosa che unifica e che costringe davanti al televisore un sacco di gente che appunto il calcio non lo conosce, o lo conosce poco, o lo conosce di vista, può darsi che questa sia una spiegazione. Poi ovviamente ci sono le eccezioni. Per esempio, ho messo da parte una mail arrivata ieri firmata Enrico Cavicchioli. Ecco, questo è uno che il calcio lo mastica. Dice: ma perché non è stato convocato Marcos Senna, il giocatore di colore del Villarreal che agli europei era il faro della Spagna? Ecco un'osservazione di un intenditore vero, perché alla Spagna di quest'anno manca Marcos Senna, manca quel giocatore appunto di colore che nell'ultima edizione degli europei era il frangiflutti davanti alla difesa, ed era quello che consentiva a Xavi, a Iniesta e a tutti i fini palleggiatori, ai fini dicitori della Spagna, consentiva tutti quei ricami. Loro avevano un po' più di tranquillità nel rischiare anche ogni tanto la giocata che gli poteva far perdere la palla, perché sapevano che c'era questo Senna a vegliare su di loro, a parte il fatto che poi Senna era anche uno in grado di impostare e di andare a concludere, aveva anche un gran tiro. Xabi Alonso è molto più lento di Senna e non ha, pur avendo più o meno quelle caratteristiche, non ha proprio le stesse. Quindi vede che di tutto si trova, no? per un mondiale. Non so, si trova Giorgio che dice: il campionato tedesco è il migliore d'Europa, complimenti, il salto sul carro dei vincitori è già stato fatto, e con che anticipo? Io vorrei sapere, cioè, l'espressione saltare sul carro del vincitore è una delle più idiote, credo, che sia stata coniata negli ultimi anni. È diventata talmente di moda che ormai viene usata completamente a sproposito. Io non ho alcuna intenzione di saltare sul carro dei non vincitori, perché tra l'altro la Germania, secondo me, ho qualche dubbio che possa vincere il mondiale, perché ha giocato troppo bene fino adesso e secondo me ha speso troppo. Ma non è assolutamente, evidentemente, un saltare sul carro quanto un ragionamento quello che ho fatto prima, e cioè che il campionato tedesco, e sono almeno 2 anni che lo dico, è il più divertente, perché quest'anno ha rivinto il Bayern, che è la squadra che vince più frequentemente in Germania, ma vince più frequentemente vuol dire, da 20 o 25 anni a questa parte, vuol dire che non vince tutti gli anni, anzi nelle ultime 3-4 edizioni avevano vinto squadre sempre diverse tra loro. Si arriva fino a 1-2 giornate dalla fine per assegnare questo anello che è il loro scudetto, e non si sa mai chi possa vincere, ma possono vincere in tanti. E ripeto, se si aggiungono stadi nuovi e moderni, stadi molto ben frequentati, soprattutto da famiglie, nessun rischio di ultra o di violenza, salvo rarissime, ma proprio rarissime, eccezioni, e bilanci in ordine senza i quali non ti scrive i campionati, a differenza delle buffonate di casa nostra, e di quelle che riguardano e cominciano a essere pesantemente cominciano a essere pesantemente nel mirino, quelle che riguardano anche il calcio inglese o spagnolo, mi pare che sia un elogio naturale e che i carri davvero non c'entrino niente. Giampiero Perugia, buongiorno. Salve. Dica. Non so se è già stata fatta come osservazione, ma mi sembra che alla Spagna manchi lo spirito, diciamo, di gruppo. Come se fossero due grossi club, appunto Barcellona e Real Madrid, che giocano un pochino separati. È possibile? No, no, Giampiero, proprio lo escluderei questo, anzi mi pare che ci sia una buona integrazione sul campo, mi pare che, non lo so, Sergio Ramos, ne dico uno, che è una testa caldina del Real e che è uno che certamente, uno di quelli che amano meno quelli del Barça, mi sembra che sia il più cercato da Xavi e da Iniesta, ma Xavi è il leader di quella squadra, il professore vero. Quindi no, questo direi proprio di no. Gli spagnoli sono dei separatisti, come è noto, no? Ma quando c'è di mezzo la nazionale sono dei nazionalisti mica male, tuttora. Il ripasso della storia, questa data di oggi, e cioè del 6 luglio, affidato anche oggi a Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 luglio 1966. A una settimana dall'esordio nel mondiale inglese, la nazionale italiana si ferma a Copenaghen per sfidare in un amichevole non ufficiale una selezione di calciatori della massima serie danese. Gli azzurri si impongono agevolmente per 4-0, con 3 gol di Mazzola e 1 di Rivera. Di fatto è la quinta vittoria consecutiva ottenuta durante il mese di preparazione, dopo quelle su Bulgaria, Austria, Argentina e Messico. Gli azzurri avevano così dato un'ulteriore prova di essere in ottima forma. Era molto difficile immaginare, a una settimana dall'inizio del mondiale inglese, che quell'avventura sarebbe finita con un'eliminazione al primo turno, per effetto di una sorprendente quanto umiliante sconfitta contro la Corea del Nord. Già, e proprio lì siamo arrivati, perché poi quel mondiale fu giocato molto in avanti, quindi insomma la data, l'anniversario di quella famosa Corea non l'avremmo presa, no? Nel corso di queste puntate speciali dedicate ai campionati del mondo, e allora Flavio Suardi si è proiettato con questo ricordo di quella giornata infausta e soprattutto infausta, tanto più infausta quanto più inattesa, proprio perché, come avete sentito da Nicola Filippone, l'Italia di quelle tappe di avvicinamento al mondiale giocava, vinceva, ma soprattutto giocava un magnifico calcio. Ci aveva detto Valcareggi che era una squadra di pellegrini, invece così non era. Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Abbiamo sbagliato tanti di quei gol che è stata una cosa incredibile. Quando mi hanno detto: guarda, bisogna che tu giochi perché sei indispensabile in questo momento. Io avevo male al ginocchio ed ero capitano della nazionale. Come fa uno a dire di no? Il gol che ha fatto quando c'era in porta Park Do-hik, che mi hanno detto quando in Corea era un dentista, se quello era un dentista io sono il padre eterno, perché era veramente, bastava anche un pareggio. È una cosa incredibile essere eliminati così. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta in vero stasera immeritata. Era la voce di Giacomo Bulgarelli, scomparso lo scorso anno, quello che ha fatto da guida e da collante a questa ricostruzione, e fu lui a essere sacrificato dall'allora commissario tecnico a scendere in campo ad ogni costo, nonostante un ginocchio malandato, in un'epoca in cui non c'era sostituzioni. Penso la più grande, il più grande errore, la più grande idiozia della storia dei commissari tecnici italiani, tant'è vero che da allora Corea è sinonimo di sconfitta, ma non solo, anche di autolesionismo. Dicevo prima dei campionati spagnoli e inglesi, che una regolata se la dovranno dare prima o poi. Agenzia, il Barcellona comunica stamattina in una nota di aver venduto il giocatore Cigrinski allo Shakhtar Donetsk per 15 milioni di euro. la cessione del difensore ucraino di 23 anni rientra in un quadro di necessità della tesoreria del club, stiamo parlando del Barça, a breve termine. Cigrinski era arrivato l'estate scorsa dallo Shakhtar su espresso volere di Guardiola e dietro pagamento di 25 milioni di euro. Il neoeletto presidente del Barcellona, Sandro Rosell, ha detto oggi in un'intervista che ha trovato un club indebitato e ha spiegato che la direzione sta negoziando un credito di 150 milioni di euro per assicurare liquidità al club e disporre di un cash flow per poter far fronte alle scadenze a breve termine. Questo giusto per dare un'idea dell'aria che comincia a tirare anche negli apparenti paradisi calcistici, no? Dove tutto è consentito. Donato Pisa, buongiorno. Sì, ciao Gigi, complimenti per la trasmissione. Io ho un'idea del nostro problema del calcio italiano, nel senso, visto i recenti mondiali. Io credo tanto nei giovani e penso che in Italia ci sia pochissima attenzione ai giovani, ai vivai e al settore giovanile e anche alle serie minori. Vedo anche da parte dei mass media veramente poca attenzione al campionato di Serie B, all'ex C1, insomma alla Lega Pro, al Nazionale Dilettanti. Io penso che si dovrebbe dare più attenzione a questo calcio che è bello e serve sicuramente alla Serie A e serve anche alla Nazionale. Sì, penso che sia anche un problema di coraggio nel lanciarli, forse soprattutto, o comunque sia un altro fattore da tenere molto presente, e cioè i Müller, piuttosto che, non so, possiamo fare i nomi che vogliamo, ma Müller è un esempio, mi sembra abbastanza significativo. Non è che il Bayern, quando Van Gaal quest'anno l'ha lanciato, non è che Van Gaal avesse pochi titolari e che Müller fosse chiuso da pochi, no? Però non ci ha pensato un attimo. Quando ha visto di che spessore era questo ragazzo, anche se era l'ultimo arrivato, se era l'ultimo della pista, come si dice in genere, lui l'ha inserito, l'ha imposto, evidentemente avrà insistito su di lui anche quando, come capita a chiunque, ma a maggior ragione a un ragazzo, ha avuto magari qualche partita, qualche passaggio a vuoto, qualche... altrove succede, da noi no, e su questo mi pare che ci sia una coincidenza di vedute da parte di un po' tutti gli osservatori e gli operatori calcistici, anche di quelli che poi avrebbero la possibilità di farlo e non lo fanno. Thomas in linea da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Granzina. Dica. No, io volevo dire che di solito le punizioni servono come deterrenti. Invece nel caso di Suarez ci ha guadagnato, perché sapeva che era l'ultimo minuto e ha fatto quello che ha fatto. Quindi secondo me devono cambiare un po' le regole. Ha fatto quello che ha fatto, cioè ha evitato un gol alla sua squadra. Cioè, ma con tutte e due le sue mani. Cioè. Con tutte e due le mani, si capisce? Avendone solo due. Se ne aveva quattro, secondo me le usava tutte e quattro per parare un pallone sulla linea all'ultimo istante e consentire ai suoi ancora al portiere la speranza di parare un rigore e di andare a tirarsi i rigori veri. Sì, ma dico, non è giusto, perché continueranno a fare queste cose qua, cioè... Vedendo le occasioni... Cioè, lei dice che da stasera tutti si mettono sulla linea a parare con le mani? No, se vedono che quello che c'è in gioco è più grande del cartellino rosso che prenderanno, lo faranno di sicuro. Calcio di rigore e cartellino rosso, Non va... Thomas, ritorniamo. Allora, aspetti che le riprendo quelle di ieri. Allora, Milco Pellegrino mi ha scritto: si potrebbe applicare la Sharia, taglio immediato della mano. Poi adesso qualcun altro purtroppo l'ho buttato, insomma ne avete sentite abbastanza, io credo, prima. E avete sentito anche quell'ascoltatore che era intervenuto dicendo: ma perché quando arriva un mondiale tutti si scatenano dicendo che, cioè, proponendo nuova regola, che ve l'ho detto prima, perché in occasione del mondiale tutti si accostano al pallone e non è ovviamente necessario un esame di ammissione, ci mancherebbe altro. Roberto Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Stavo ascoltando e mi è venuto in mente anche un'altra cosa a proposito del calcio italiano, che bisogna cambiare veramente mentalità, ma non solo da qualche anno, cioè da tanti anni a questa parte, nel senso che io ho visto la partita l'ultima, ma anche altre, ho potuto constatare. Germania-Argentina, la Germania, pur essendo in vantaggio di due gol, continuava ad attaccare e giocarne un altro. Fosse stata la nazionale italiana, già si sarebbe chiusa in difesa. Ma io non sono sicuro di questo, Roberto. Io credo... credo che dipenda dai momenti, credo che dipenda dai momenti e dipenda da come ti senti in quel momento e dalla sensazione di forza che hai maturato tua rispetto all'avversario. La Germania è stata bella chiusa fino al 67esimo minuto, fino a quando non è venuto quell'assist da terra di Müller per Podolski e il cross in mezzo per Klose che ha segnato a porta vuota. È stata bella chiusina anche perché l'Argentina non spingeva poco. E poi negli ultimi 23 minuti sono arrivati a 4-0, potevano arrivare anche di più, anche perché gli altri hanno palesemente mollato. Ma non, io ne ho viste anche di partite non strane, anche se più rare, di squadre in cui si continua ad attaccare. Dipende sempre dal rapporto di forze che si crea in un determinato punto della partita. Grazie anche a lei Roberto per il suo intervento, grazie a Filippo Aureggi in redazione, in regia, Flavio Suarni in redazione. Appuntamento a domani. A tempo di sport.